Tu mi dicevi anche la determinazione, quindi tenere gli obiettivi ben saldi, immagino. Esatto. Perché? Beh, perché insomma, per un militare soprattutto, dove la gerarchia è importante, tenere obiettivi ben saldi significa insomma crescere molto da un punto di vista etico e morale. Insomma, i valori e le tradizioni che sono nella Forza Armata sono le colonne portanti della Forza Armata stessa. Quindi una persona determinata che ha veramente chiari quali sono i valori morali di questo ambiente, che ha veramente chiari quali sono gli obiettivi di questa istituzione, che devono essere gli obiettivi individuali, a differenza magari di un lavoro qualsiasi, i miei obiettivi sono quelli dell'ambiente per cui lavoro, non sono i miei di professione e basta. E questo è un concetto molto importante. Io dico spesso ai miei allievi che è molto simile all'essere un missionario, no? Bisogna avere una vera e propria vocazione per questo tipo di vita. Immagino sia una vita molto difficile, molto dura, come dicevi tu, ma che dà anche grandi soddisfazioni. Scendendo un pochino più nel personale, proprio di passaggio, qual è la più grande soddisfazione che tu hai avuto? In Marina, ovviamente. In Marina, certo. La più grande soddisfazione è stata, lo dico veramente con facilità, quando ho lasciato il mio comando. Io ho comandato un cacciamine, nave inumana, nel 2001. Quando ho lasciato il comando, poi sono tornato al mio reparto di precedenza, che era appunto la forza a sbarco della Marina nel San Marco. E quando sono tornato lì, a Natale, che insomma erano ormai 4 mesi abbondanti che avevo lasciato il mio incarico a bordo di questo cacciamine, a Natale ho ricevuto 50 sms, uno di fila all'altro, ed erano gli auguri di Natale che mi facevano il mio ex equipaggio, quindi è stata veramente una giornata bellissima, un ricordo stupendo, una soddisfazione immensa. E come senti l'atteggiamento della gente, delle persone, rispetto alla divisa? L'atteggiamento della gente, io adesso mi occupo anche di stampa per quell'incarico relativo al trofeo che sto seguendo, e mi accorgo che molta gente vede nella divisa una barriera. La barriera non c'è, ti sei penso accorto anche tu, no? Che a me piace comunque comunicare molto, mi piace sorridere, mi piace guardare la gente negli occhi. Quindi noi siamo persone come gli altri, facciamo questo lavoro, abbiamo una divisa addosso che ci differenzia da magari da un altro tipo di lavoro, però obiettivamente la gente, quando capisce questo, apprezza ancora di più quello che facciamo. Senti, ritorniamo un attimo a parlare dell'Accademia di Livorno. Voi ospitate molti cadetti, quanti sono in tutto? All'interno dell'Accademia c'è una parte relativa agli allievi e una parte relativa agli ufficiali che sono ancora in formazione. Gli allievi sono, i numeri esatti non te li saprei dire, però ogni classe diciamo ha un numero che oscilla tra i 120 e i 150 allievi. Sono 3 classi di allievi, più i corsi ausiliari, che sono gli ex ufficiali di complemento, che ora si chiamano corsi ausiliari, e quindi si arriva più o meno a 400 allievi frequentatori, più 200 ufficiali frequentatori. Sono 700-750 frequentatori in tutto. Sono tutti italiani o ci sono anche persone che vengono dall'estero per frequentare la vostra accademia? Ci sono anche persone che vengono dall'estero. Ogni anno vengono destinati a frequentare l'Accademia Navale di Livorno un certo numero di allievi da nazioni estere. Per esempio il mio corso, che ora è al secondo anno, ha un allievo iracheno e 2 allievi peruviani. Invece il corso che è entrato adesso ha allievi di altre nazioni, senegalesi, mauritani, azerbaigiani, dei paesi dell'ex Jugoslavia, quindi croati o addirittura sloveni. Allora, mi incuriosiscono in particolare 2 nazionalità, la nazionalità irachena, quindi il ragazzo iracheno, e i ragazzi croati. Secondo te questa loro affezione, quindi questo loro affetto anzi verso le forze armate italiane, viene dalle missioni che sono state fatte nei loro paesi? Beh, non lo so, potrebbe anche essere. Loro vengono designati dal loro stato a frequentare questa accademia, quindi superano a loro volta un concorso nel loro stato, che per meritocrazia poi vengono mandati poi a frequentare questa scuola in Italia. Però in particolare io sto impiegando l'allievo iracheno e posso assicurarti che è assolutamente uno del gruppo, è incredibilmente integrato, è un ragazzo d'oro, lavora tantissimo, quindi penso che comunque lui, che conosceva già una parte dell'Italia, che sono praticamente gli ufficiali e i militari che sono in Iraq, perché lui è proprio di Baghdad, abbia già avuto sicuramente una buona impressione da queste persone, vedendole lavorare ogni giorno lì, e magari che le davano una mano a lui o altre persone che avevano bisogno in quel momento, insomma. Quindi tu mi dicevi lavora tantissimo, perché si lavora tantissimo in accademia, immagino. E qual è, come si svolge una giornata tipo? La giornata tipo dell'allievo è semplice. L'allievo comunque frequenta un corso di studio universitario, quindi la mattina ha lezione, una lezione presso le strutture dell'accademia, però con docenti prevalentemente universitari. A seconda del corpo di appartenenza segue un iter di studi particolare, che va da ingegneria fino a giurisprudenza. Passando attraverso anche la medicina, perché abbiamo anche allievi del corpo sanitario. Quindi si alza la mattina, fa le pratiche classiche, quindi colazione, discussione di eventuali rapporti disciplinari col proprio comandante, va a lezione, e pomeriggio invece ha attività tutte legate alla parte etica professionale, quindi va in barca a vela, fa sport, ognuno fa determinate discipline sportive, tutti fanno un po' di tutto, però ci sono gli allievi designati per ogni sport, quindi pallacanestro piuttosto che calcio, piuttosto che equitazione. E pomeriggio poi, dopo questa attività, ha un po' di tempo per studiare ovviamente, per poi continuare con cicli di conferenze, attività di classe durante la sera e ovviamente anche di studio. L'allievo del primo anno ha in particolare la possibilità di andare in libera uscita anche 3 volte alla settimana, quindi giovedì, sabato e la domenica, rigorosamente in divisa per il primo anno, e già in borghese a partire dal secondo anno. Quale tipo di spirito di corpo si sviluppa tra questi ragazzi? Com'è proprio la vita presso di voi, e quale spirito di gruppo positivo immagino si sviluppa? Beh, molto positivo, perché dei ragazzi giovani che condividono tutte le stesse problematiche per tanto tempo si uniscono. Questo è proprio scopo anche della formazione dei primi 2 anni, quindi creare un gruppo che funzioni, un gruppo importante, e far capire a loro quanto è importante lo spirito di gruppo, lo spirito di corpo. Loro all'inizio dell'anno sono sicuramente un po' così sballottati da questo nuovo ambiente, però poi con la campagna estiva che fanno durante il primo anno sull'Amerigo Vespucci, dove vivono veramente a stretto contatto col mare, con tutto quello che è marinaresco, e tra di loro, dormendo poco, lavorano tantissimo, ecco, quel momento esce fuori il gruppo vero e proprio, si attaccano tantissimo, diventano veramente amici forti, ma un'amicizia veramente che è raro vederla anche da altre parti, ambienti scolastici, universitari. Una cosa molto bella. Se ci sono dei problemi, a cosa sono legati in particolare? Problemi di che tipo? Problemi magari di inserimento o di... Provo a immaginare nostalgia di casa, nostalgia di una vita, tra virgolette, da civili. Certo, i problemi sì, sono strettamente legati a quelli. Poi alla fine alla mancanza dell'ambiente di casa, ma anche alla... magari capacità, alla non capacità di gestire un tipo di stress molto particolare, che è quello della vita in accademia. E io non ho avuto tantissimi allievi di missionari. Quelli che se ne sono andati fondamentalmente perché non riuscivano a stare al passo con gli studi, e quindi hanno deciso di fare poi intraprendere un'altra strada, oppure hanno avuto problemi di altro tipo, magari sanitari, hanno avuto incidenti e quindi hanno dovuto rinunciare come potevano rinunciare a qualsiasi altra attività. Quindi non ho avuto casi di ragazzi che avevano nostalgia di casa, che comunque uscendo durante la settimana, avendo la possibilità anche di impiegare telefoni o altri mezzi di comunicazione, hanno sempre un contatto con la propria casa, con i propri cari, insomma. Quali caratteristiche psicologiche, che probabilmente hanno un pochino tutti gli individui sopite, racchiuse dentro di loro, trovi che espliciti il rapporto col mare? Ovvero, quale lato della personalità tira fuori dalle persone? Beh, sicuramente lo spirito di sacrificio, sicuramente, perché è difficile vivere in un ambiente molto ristretto, quello che è la nave o quello che, tutto quello che viaggia su mare, insomma. Quindi spirito di sacrificio e la forza di volontà, perché lavorare quando si dorme poco, quando magari c'è mare mosso, quando magari c'è gente che sta male intorno a te, insomma, è sicuramente più difficile. E questo lascia uscire sicuramente un grande spirito di sacrificio e una grande forza di volontà, cosa che un militare deve avere. Ecco, torniamo un attimo sul piano più generale. Tu trovi che sia cambiato qualcosa dopo l'abolizione del servizio militare obbligatorio? Fondamentalmente io ho sempre lavorato con personale volontario, quindi non mi sono accorto molto di questo cambiamento, però una cosa che si è notata è sicuramente il livello professionale del militare. Ora il militare è a tutti gli effetti una professione, e quindi il livello qualitativo dell'uomo con le stellette è cresciuto sicuramente, questo grazie all'abolizione del servizio di leva. Posso dirlo per certo, è un dato di fatto, insomma. Tu trovi che sia percepita quindi più come una professione a tutti gli effetti rispetto a quando il servizio militare era obbligatorio? Sì, sicuramente. Il servizio militare obbligatorio non era una professione, era un periodo di transizione per chi magari voleva anche affacciarsi a questa vita. Ora è una professione a tutti gli effetti, anzi, è qualcosa di più. Senti, Luca, l'ultima domanda è un pochino più personale ed è: cos'è per te il mare? Secca. Per me il mare è vita. Quindi io sul mare ci sono nato, ci sono cresciuto e ci continuo a stare ormai lavorandoci da 19 anni, quindi penso che avrei grosse difficoltà a vivere senza il mare. Va bene, noi ci fermiamo qui, ringraziamo il comandante Luca Anconelli che è stato con noi, a voi una felice continuazione di giornata su Radio 24.